è andato in cielo per poi ritornare. I servi che ricevono del denaro rappresentano coloro ai quali Dio dà dei doni perché li facciano fruttare durante la sua assenza. La parabola riporta la risposta del padrone al servo inoperoso. Ti giudicherò dalle tue stesse parole. Malvagio servo, tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così, al mio ritorno, lo avrei riscosso con l'interesse. L'ozioso servo viene giudicato severamente dal padrone, perché questo voleva che il denaro fosse fatto fruttificare. E da notare che il padrone non giudica l'opinione che ha il servo di lui, non lo condanna per questo, ma giudica la sua incoerenza. Così è in questa vita. Non tutti hanno la stessa opinione di Dio. Ci è una maggioranza che lo vede un Dio buono, benevolo, misericordioso. Altri vedono il Creatore osservando questo mondo con le disgrazie, le ingiustizie, i soprusi, un Dio severo, duro, ingiusto. Vi sono poi coloro che giudicano la sua morale, che egli vuole mietere ciò che non ha seminato. Ma non è il momento di discutere chi ha ragione. Anche il padrone della parabola non ha discusso l'opinione dei suoi servi, soprattutto quella del servo ozioso. Anzi, la sua risposta lascia senza fiato. Tu sapevi che sono un uomo duro. Sì, il padrone accetta di essere considerato un uomo duro. Una cosa però egli esigeva. Qualsiasi opinione che si avesse di lui, si dovevano fruttare i soldi, non si doveva rimanere nell'ozio. Questo significa che Dio vuole che i doni ricevuti vadano comunque esercitati, qualsiasi opinione che si abbia di lui. È facile incolpare Dio. È vero. Dio può anche essere come tu la pensi, sia al positivo che al negativo, ma ciò non ti deresponsabilizza nella vita ad essere impegnato verso Dio e verso il prossimo. Non mi stupirei che nel giudizio Dio sarà clemente sulla nostra ignoranza dottrinale e morale. Se non è così, chi si salva? Ma sarà tremendamente severo con i fannulloni. E facile adagiarsi sulle comodità in attesa del ritorno di Cristo. Se non fosse così, Gesù non ci avrebbe più volte avvertiti. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, 34-36. Proprio per la sua negligenza, Gesù ha tolto al servo ciò che gli aveva dato. Così, anche se Dio ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nei cuori dell'uomo. Ecclesiaste 3:11. Non tutti sfruttano questo dono. Alcuni per negligenza ad un dato momento della loro vita si trovano senza fede e senza religione, e nella loro ignoranza, guardando in alto, si irritano e maledicono Dio. Isaia 8:21. Ma l'ultima parola spetterà a Dio. A chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Sì, Dio è anche un Dio duro, come anche un fuoco consumante. Ebrei mezzogiorno e 29. Lo è se tu lo sei. Come disse Davide, tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto. Ti mostri puro col puro e ti mostri astuto col perverso. 2 Samuele 22, 26-27. Egli ti tratta come tu tratti lui. Certamente egli schernisce gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Proverbi 3:34. Come vedi, Dio si beffa di chi si beffa di lui, si nasconde con il perverso, ma può impedire la sua dura reazione con l'umiltà. Non solo Dio ti tratta come tratti lui, ma retribuisce anche in base a come ti comporti con gli altri. Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Matteo 6, 14-15. Non credere di passarla liscia, anche in questo Dio è duro. Egli non ti fa alcun torto se ti ricompensa con la tua stessa moneta, a meno che tu non condoni le colpe altrui nei tuoi confronti. La scrittura non nasconde la durezza di Dio. Egli sarebbe un pagliaccio. Se sei nemico di Dio, la tua sorte sarà quella di essere inesorabilmente respinto dalla sua presenza. 2 Tessalonicesi 1:9. Se sei un credente, la tua pigrizia ti farà perdere i premi che Dio ha preparato per coloro che lo amano e ti ritirerai svergognato quando Cristo tornerà. 1 Giovanni 2:29. Dichiara a Dio che vuoi servire Lui e il prossimo per amore di Lui. In cielo sarai servito da Gesù. Beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. Luca 12:37. Novembre 2000. Ellero.